di provarselo. Non la fermare, no. Venerandi in sé poi prendersi a cercare, scorrere del tempo in un attimo tanto ho. E gli occhi che io ho, osservare il mondo, scopri sono anche tu. Volta giuro come un temporale, aspettare noi tua la mia prigione, torna col tuo sorriso, siamo morti perduti, senza un ricordo di noi. Torna col tuo sorriso, siamo morti perduti, senza un ricordo di noi. Luce di luna, cuori vicini, sappia che scorre, è sempre tutta inutile. Se mi pensi non so, siamo così lontani, ma questa forza di trovarsi noi non la fermare, no. Senza ricordo di noi, senza ricordo.